Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Ritroviamo gli amici dell'Associazione Difesa Consumatori di Mestre, in questo caso ritroviamo il presidente Carlo Garofolini. Ciao Carlo, benvenuto. Ciao Francesco e un saluto a tutti gli ascoltatori. E allora, dopo un periodo dove abbiamo chiacchierato amabilmente anche con altri collaboratori dell'Adico, con te torniamo a parlare, in questo caso torniamo a parlare di casi che capitano, come quello che è successo a una tabaccheria di Via Carossa. Dove però? Via Carossa dove? Sì, allora Francesco, parliamo proprio di Via Carossa, è una zona di Mestre, ma il fatto che sia capitata una tabaccheria di Mestre abbiamo voluto tenerlo in questa occasione in considerazione, perché sono casi comuni che capitano un po' in tutto il Veneto, e questo diciamo in ordine temporale è capitato qualche giorno fa, in cui una tabaccheria si è trovata senza corrente e per motivi inspiegabili, oltretutto, visto che aveva sempre pagato le bollette regolarmente. E una volta che si è rivolta all'Adico, abbiamo voluto appunto oggi decidere di affrontare questo argomento, perché ci sono stati dei risvolti molto curiosi che è bene che il consumatore tenga sempre in considerazione. Quindi problemi, sospensione dell'energia elettrica, come va questa storia? Intanto si è risolta, adesso la corrente ce l'hanno? Allora, innanzitutto la vicenda si è risolta, la corrente ce l'hanno, però è diventata un'occasione anche per discutere queste famigerate 70 euro di rilascio, perché in questo caso la vittima è stata una tabaccheria che da aprile ha cominciato a ricevere dei solleciti di pagamento di bollette. Loro non capivano a cosa si riferissero queste bollette, perché improvvisamente le bollette cartacee avevano smesso di arrivare. Continuando in questa situazione, in questa vicenda, si sono recati chiaramente al punto vendita, hanno capito che non avevano ricevuto la bolletta, l'hanno pagata e si sono ritrovati al punto di partenza a giugno, dove ai solleciti di pagamento è seguito poi un depotenziamento, un distacco, e quindi l'intero ha voluto sì che poi la persona è tornata là, ha chiarito, ha pagato tutte le sue bollette e alla fine la vicenda si è risolta. L'invito però, ed è quello che il messaggio dobbiamo dare anche ai consumatori, è che in questo caso questa era una tabaccheria che per decenni è sempre stata cliente del fornitore, in questo caso è l'Enel, e che ha sempre pagato regolarmente tutte le bollette, ma che improvvisamente questo fornitore ha cominciato a mandargli le bollette su posta certificata elettronica. Loro chiaramente, lavorando, non guardando la posta, perché con la posta certificata sono abituati solamente a scaricare le comunicazioni dell'INPS e del fisco, non si erano accorti di queste bollette, di queste richieste di pagamento. Ma anche se la vicenda si è conclusa positivamente, non troviamo giusto, per un effetto di situazioni e comportamenti che si sono determinati, che oggi debbano pagare i 70 euro di rialaccio, in quanto riteniamo che insomma non c'è stato dolo da parte della tabaccheria, ma c'è stata anche una negligenza da parte del fornitore, che improvvisamente ha mandato le bollette via posta elettronica e non più via cartacea come per decenni hanno fatto. Ecco, ma è normale questa cosa che si mandi poi per PEC, no? Che normalmente sono la PEC viene utilizzata per le comunicazioni ufficiali, quelle governative se vogliamo, no? Infatti non è assolutamente normale, perché ricordiamo che la PEC sostituisce di fatto alle raccomandate con le ricevute di ritorno, ma hanno validità legale e giuridica solamente nei confronti, nei rapporti con gli enti pubblici. Quindi al contrario, tra privati e privati non ha valore di raccomandata. La cosa curiosa è come di là dei solleciti mandati via PEC, poi hanno dovuto, alle bollette scusa via PEC, hanno mandato i solleciti via raccomandata per posta ordinaria. Quindi capiamo anche qua che c'è stato veramente qualcosa di strano sulla comunicazione. Però riteniamo anche che un cliente che da decenni ha pagato sempre le bollette, ma in ritardo di un giorno, e che è sempre stato regolare nei rapporti, debba anche in un certo qual modo essere trattato diversamente. Come si riceve tante volte le telefonate per proposte commerciali, penso che una telefonata per spiegare un attimino o capire cosa stava accadendo avrebbe potuto evitare questa situazione. Certamente. Ed è certo. E dall'ultimo Francesco ricorda ai consumatori che il gestore, prima di provvedere al distacco, avvia una procedura di depotenziamento dell'energia che puoi utilizzare. Quindi se vediamo che improvvisamente noi riceviamo bollette e il contatore salta facilmente per ogni cosa, ecco, prima di chiamare l'elettricista cerchiamo di controllare se siamo in regola con i pagamenti. Beh, questa è un'ottima cosa. Adesso l'Adico si muoverà proprio per far sì che non vengano richiesti i 70 euro del riallaccio della corrente, allora. Ma sicuramente noi abbiamo contestato subito tutta la vicenda, innanzitutto abbiamo anche verificato se consumi, bollette, se c'era la necessità di valutare eventuali forme di rateizzazione determinate appunto dall'importo di queste bollette, ma il problema diventa a questo punto una questione di principio tra loro, noi e il fornitore, perché riteniamo che le spese di riallaccio non ci devono essere. Ricordiamo contestualmente che oggi i consumatori, quando ci sono ragionamenti di migrazione o di distacco, bisogna considerare eventuali penali di rialaccio, perché sono tornate ad essere applicate queste famose 70 euro, che erano dei costi che in un'ottica di liberalizzazione che Bersani aveva avviato qualche anno fa erano sparite e che oggi ritornano. E vabbè, le cattive abitudini sono difficili da cacciare. Grazie invece a una buona abitudine che abbiamo, quella di chiacchierare amichevolmente con l'Adico, con la voce del presidente Carlo Garofolini, che ritroviamo tra due giorni. Grazie a te Francesco, un saluto a tutti gli ascoltatori. Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Per riascoltare questo programma vai su bluradioveneto.it.